Sotto dal fondo una pantera nera sta col pelo a scendere in danza come un assalto. Noi stiamo andando dritto, non perché verde davanti è tutto liscio, non perché invento, sto costruendo un piano, perché è quello che siamo, quello che siamo. Ma tu che cosa credi? Buttiamo a cielo per rimanere in piedi. Cerca di capire e non urlare al matto. Siamo qui per riportare il freddo al caldo, la quiete in tempesta, danno un senso a tutto e a fuoco questa festa. E non è fatto, è giusto. Ehi, cosa vuoi sentire? Verso l'hip hop, rock and roll, tu vuoi uno stile, ma questo è quello che ci piace. Metti i criminali per non dargli pace. E ancora, ancora. E COT, che sta succedendo? Cadda sul cielo un uragano, attento, non spezzarti il fiato in gola. E là, che non è un circo, è noi quello che siamo. Quello che siamo ed eccoci di nuovo. Questa è la posse, sei pronto? Ponte la sua posse. Spara la palla, mettiti all'ascolto, le guardie sempre alle palle. Non le cago neanche, le disprezzo e non scherzo. Sto dando ritmo al tempo, mi segui? È meglio, perché è quello che voglio. E allora ancora, finché avrò fiato in gola e poi uno sbocco qui, ma può darmi di più, forse un crimine. Cosa vuoi fare tu? Dimmi! Qual è la via di scampo? Ci salvi di po'. Questo è il nostro bersaglio, con fatti, nomi, perché regna ignoranza. Tanta! Fottuti opportunismi per una vita soli. Così volevo ucciderci. Ma siamo tornati, siamo tornati per beccarti. Ora prova a fermarci, fuori dal controllo. La dura posse, semplici militanti. Ti sta battendo il tempo, è chiaro, come puoi fidarti? Tutti lo sanno, come va la storia. Da dove vengono loro, dove vanno? E allora? Tieni il polso alla strada, perché lui usa, abusa, ma io gliela ficco in gola. A tempo di rap, dure parole dal cuore. A tempo di rap, quando siamo in azione. Fuoco! Sto premendo il mio biletto, proiettili le rime, ma io voglio andare a segno. Perché c'è che maledetto, un mio fratello, ora il fresco dentro. Ci resterà per tanto, aveva fretta. Niente da darle in cambio, tu non tirarti fuori. Quale adesso la sua via di scampo? Ci vai in spazio, sucker! È come un treno in quattro quarti di tempo. Valori sonori, distruggono argomenti per coglioni. Giù dal fondo, perché ce n'è bisogno. Come un uragano, perché sono un uomo. E i miei fratelli, così ostinati e giovani, così tanto ribelli. Ed è quello che siamo, quello che siamo. La che prende il tuo cuore, fatte parole. Tanto una terra grotta sangue, push! Chiamalo col suo nome, un boy è un boia. Un fottuto spacciatore vende morte. Soldi, tanti, dollari a milioni, per mantenersi noi. Un fottuto spacciatore, vende morte. Pieno di interessi, mette il veto, controllo di tassate. Indice medio. Siamo, urlalo sempre, con ogni mezzo necessario. Il ritmo sta battendo, dura poesia senza poeta, non da scampo. In tutti i modi, perché più li conosci più li odi. Rima, sintesi viva, ti fa volare alto e tu li puoi vedere. Questo è il momento, cos'altro potrei dirti? Batti il tuo tempo per fottere il potere. Onda rossa fosse, boom! Anche stanotte, come tutte le volte, non è per chi dorme, è per chi vive in equilibrio. In equilibrio tra il legale e l'illegale, perché agita il suo genio e si esibisce da folletto. Perché è quello che siamo!